Primavera di Nicola Buffa, qui dal vivo a Radio 3 Suite insieme a Paolo Travagnini. Siccome Luigi Taglioni mi strilla sempre perché parlo troppo, io suggerirei di andare avanti con gli ascolti. Ancora tu? Non dovevamo dirci più. Ah, grazie, scusate. Taglioni ormai entra qui in regia, mi cambiano le cuffie. Dobbiamo chiamare Rivolta alle 22.35? Come? 35? Vabbè, poi me lo spieghi. A 35 di già? Andiamo avanti con la musica e l'ospite che abbiamo dopo. Che cosa ascoltiamo adesso? Ma ascoltiamo un brano che si chiama Abarumba, che è un brano ispirato alla Spagna, di un recente viaggio, insomma, che ho fatto. E un pezzo tuo questo? Sì, un pezzo mio. Origini così, ritmi tra la banera e la rumba, sulla quale si è innestato un baião, che è un ritmo brasiliano. Abarumba? Abarumba. Abarumba di Paolo Travagnin con naturalmente Nicola Buffa, grazie.